Oggi è l'8 gennaio e siamo qui a Dubiaco e la giornata si presenta bellissima, anche se è ancora quasi buio. La neve è molto buona. Ieri non siamo andati a sciare perché la macchina è rimasta bloccata dal gelo, dal freddo. E ieri sera ho letto il libro di Terzani. Ho continuato a leggere il libro di Terzani, su Tiziano Terzani, La rivoluzione dentro di noi. E questa mattina riflettevo sulla separazione soggetto-oggetto, che è il nucleo centrale del nostro pensiero, linguaggio, del pensiero linguaggio occidentale, che è diverso da quello indiano, da quello orientale. Terzani ha il pregio di dire le cose, anche le più profonde, con un linguaggio che va direttamente al sodo, proprio perché non ha alcun tipo di soggezione a mondi accademici, mondi intellettuali, non ha come referente gruppi di persone appartenenti a una determinata categoria riconoscibile, tipo appunto gli intellettuali, tipo gli accademici, ed è un vero e proprio ricercatore. La sua ricerca non è avvenuta nei laboratori di psicologia, è avvenuta nei laboratori della vita, viaggiando nel mondo. Lui prima ha iniziato come giornalista, poi si è reso conto che stare al giornale, frequentare il giornale Milano, lo avrebbe impoverito, lo avrebbe fatto appassire, e quindi preso un sacapelo e andò in tutte le famiglie che conosceva in giro per l'Europa a cercare lavoro in altri giornali, finché trovò Der Spiegel, che gli consentì di fare un inviato in Oriente. Bene, questo suo viaggiare in territori diversi, in popolazioni diverse, da un certo punto di vista, è un viaggiare in territori diversi di pensiero. E per Terzani utilizza un tipo di pensiero che è metaforico, procede soprattutto per analogia. Naturalmente conosce benissimo il nostro pensiero analitico, lo pratica molto bene, ma alla fine riesce sempre a trovare le metafore, le storie, le analogie che vanno direttamente al cuore dei problemi. In questo senso il pensiero di Terzani è un pensiero che già dall'inizio è improntato verso un modello non duale della realtà. In Aleph la distinzione appunto tra duale e non duale è centrale. Duale cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che l'io osservatore si sente separato dall'oggetto osservato. E questa separazione tra l'osservatore e l'oggetto osservato è il centro, il nucleo fondante di tutta la scienza occidentale. È solo con la fisica quantistica del Novecento che comincia a essere messa in crisi questo principio, l'idea che ci possa essere un osservatore che non influenza l'oggetto osservato. Ma per il resto tutta la scienza ha proceduto in questo modo. Dall'altra abbiamo la visione non duale, che l'oggetto, il soggetto e l'oggetto fanno parte di una realtà più grande e che si influenzano continuamente in modo reciprocamente. Non è possibile osservare qualcosa senza esserne influenzati e senza influenzarla a propria volta. È interessante notare, tra parentesi, che questi due modi di osservazione appartengono ai due diversi emisferi. L'emisfero sinistro è analitico e funziona proprio così. L'emisfero destro è gestaltico e tende ad essere olistico. Potrei rinviare a un sito in internet dove si trova l'esperienza di una scienziata, una neuroscienziata, che ha avuto un ictus, una grave compromissione dell'emisfero sinistro, non funzionava più, e vedeva la realtà esattamente come la vedono i mistici, cioè una realtà totalmente interrelata, non si vedeva più separata né lei dal proprio corpo, dalle proprie mani, dalle proprie mani, dagli oggetti e così via. Quindi possiamo dire che il nostro cervello è formato, come dire, di due fondamentali parti, sinistra e destra, che hanno due visioni, una analitica corrispondente alla visione occidentale e una più sintetica, più olistica, non duale, tipicamente dell'emisfero orientale. Se guardassimo la Terra dallo spazio e pensassimo che la Terra corrisponde al nostro cervello, potremmo dire che i due emisferi sono veramente i due emisferi occidente e oriente. Ecco. Quindi, così come un buon cervello funziona bene ed è equilibrato se attraverso il corpo calloso le informazioni l'uno dell'altro si mettono insieme per creare una visione armonica e una sintesi dei due, così credo che il futuro dell'umanità possa essere possibile se i due emisferi, in così occidentale e orientale, in qualche modo cominciano a ibridarsi e a mantenersi fecondamente uniti. Ecco. Ritorno al tema io osservatore, oggetto osservato, che è il centro di una grossa parte del libro di Tiziani, La rivoluzione dentro di noi, dove lui fa una notevole e precisa critica costruttiva della scienza occidentale. Noi sappiamo che lui ha avuto un tumore e che poi si è fatto curare a New York, in uno dei centri più specializzati, quindi proprio espressione massima della cultura occidentale e della scienza occidentale. Proprio perché lui, come stile di pensiero, tende a unire sempre le due sponde, a non rifiutare né una né l'altra. Quando faceva il corrispondente di guerra, aveva questo di caratteristico, tendeva a mettersi sempre nei panni dell'avversario, oltre che della propria parte. E questo l'ha sempre fatto. E anche nel momento di maggiore crisi della sua vita, quando si ha un tumore, si ha un rischio di morte, pur avendo ormai aderito al paradigma non duale, quindi avrebbe potuto farsi curare attraverso la medicina, l'omeopatia o altre cure di tipo non duale, in realtà dà una parte di fiducia ancora alla scienza occidentale, perché lui in effetti ritiene che è la sintesi quello che ci può salvare dal futuro. Va bene, adesso volevo dire qualcosa a proposito delle conseguenze psicologiche del dualismo, io mondo, io altri, io oggetti. Bene, nel momento in cui io percepisco ciò che è esterno a me come un oggetto, è naturale che veda questo oggetto come qualcosa da poter usare, da poter utilizzare. Vedo una forchetta, mica io sono la forchetta cosa mi serve? La prima domanda è cosa mi è utile, cosa mi serve, in che modo lo posso utilizzare? E se è un oggetto che non serve a nulla, posso sempre chiedere, ma che uso ne posso fare? Che modo lo posso trasformare? Beh, questa è la domanda fondamentale che si è posto Bacone all'inizio, quando ha fondato il metodo scientifico. Lui diceva che la scienza aristotelica, la scienza fino allora, non aveva prodotto nulla di veramente utile. Sì, aveva contemplato il mondo, ma questo che importanza ha? Mentre la scienza di Bacone doveva essere un modo per utilizzare il mondo per sfruttare i segreti della natura, per manipolarla, dominarla e quindi ricreare in terra una sorta di paradiso che sarebbe stata la scienza a poter generare. Diceva che questo era un compito anche che Dio ci aveva dato, perché Dio ci aveva dato l'intelligenza, d'accordo, ci aveva cacciato dal paradiso terrestre. E come ritornare dal punto di vista etico alla benevolenza di Dio? Questo è un problema della religione. Come invece poter ricreare una situazione di paradiso in terra, questo era un compito della scienza. E la scienza, secondo Bacone, doveva creare quegli strumenti che osservare la natura in modo da poterne carpire i segreti e poterla finalmente dominare e metterla a servizio dell'uomo. Allora, Terzani, in alcune pagine veramente bellissime, parla proprio della scienza come la scienza dell'utile, la scienza che va a cercare ciò che può essere manipolato, sfruttato, utilizzato, che cosa? Al servizio dell'uomo. Non è più contemplazione e quindi non c'è più alcun rispetto per l'oggetto, per ciò che viene contemplato. Perché? Perché non c'è più immedesimazione, non c'è più empatia. E all'origine del pensiero scientifico c'è la visione di Cartesio, rex extensa, res cogitans. Un conto è la rex cogitans, cioè il pensiero, l'anima, che è appannaggio della Chiesa, diciamo così per Cartesio, e dall'altra è la rex extensa, cioè la materia, che sono due cose completamente separate. Quindi l'io, come parte della res cogitans, può osservare la materia, che è un oggetto praticamente meccanico, inerme, meccanico che funziona secondo le leggi appunto della fisica, della chimica. Ecco. E quindi dice Terzani, la scienza, con questi presupposti è naturale che poi porti al tipo di scienza economica che oggi abbiamo, che è una scienza che non c'è alcun libro di economia che parli di avidità, di ingordigia e di egoismo. Cioè non parla di nulla di tutto ciò che rende l'uomo un essere, diciamo, non tanto amichevole nei confronti dei propri simili, anzi, decisamente ostile. E un essere che difficilmente può cooperare con altri, se non in modo locale, ma globalmente compete e combatte e quindi naturalmente produce la guerra. E lui dice che l'impostazione di base scientifica duale contiene i presupposti che portano poi a un'economia che è fatta in questa maniera, no? Che porta l'uomo a combattere con se stesso, a combattere con gli altri e a competere con la natura e così via. Quindi è implicito nell'idea di oggetto, vedere l'altro come oggetto, l'idea di manipolazione, di sfruttamento e quindi alla fine di profitto. E quindi l'etica che oggi è dominante, che è l'etica mercantile, l'etica del dominio del denaro, l'unico valore fondamentale è il possesso, i beni materiali, il dominio, beh, dice Terzani, è implicito nella visione scientifica del mondo. Dice Terzani, prima abbiamo messo sull'altare la religione, considerata da Marx l'oppio dei popoli. Adesso abbiamo mantenuto l'altare e sull'altare abbiamo messo la scienza, che è diventata il nuovo oppio dei popoli. Bellissimo poi tutto il discorso sulla pubblicità. La pubblicità è quel mezzo, il marketing, tutto viene venduto, comprese le idee. Qualunque tipo di idea ha valore se viene impacchettata bene. Non importa che tipo di idea sia, basta che abbia una bella confezione, che sia ben presentata. Ecco, quindi ci troviamo di fronte a un mondo che è piuttosto coerente. E il fatto che la scienza moderna studi questi diversi aspetti in diverse discipline, spesso tra loro completamente separate, indica come più scienza, più di questo tipo di pensiero, non può risolvere i problemi tremendi che oggi ci sono nel mondo. Il primo dei quali è la forma depressiva che l'essere umano ha, la forma depressiva che dipende dal fatto che tradisce la sua natura di essere spirituale. Terzani poi parla anche della psicanalisi, dice come la psicanalisi è una forma, come quella del marxismo, è una forma materialista, perché non riconosce la presenza di qualcosa di oltre, di qualcosa, quindi quello che per esempio a Saggioli, la psicologia transpersonale, parla di inconscio superiore e di tutto ciò che contiene i valori più profondi dell'anima umana. Detto in altre parole, è una psicologia senza anima. La visione di Terzani per noi è particolarmente interessante perché Aleph, pur essendo partita dalla psicologia, dalla PNL, è in realtà una filosofia, è un modo di pensare. E dentro Aleph stiamo creando le condizioni per un nuovo tipo di pensiero-linguaggio che sia il più semplice possibile e che ci consenta di passare dal tipo di pensiero-linguaggio che tende a separare e quindi poi a creare tutte le conseguenze che abbiamo visto prima, a un tipo di pensiero-linguaggio che costruisca in modo diverso la realtà, non più separata, ma correlata, connessa, unita. Non a caso, primo dei simboli Aleph è l'Ubuntu, che vuol dire inter-essere, inter-connessione. Un'ultima considerazione. Quando l'io si separa dagli oggetti che osserva, che cosa succede? Che l'attenzione viene punto apposta su degli oggetti e la relazione tra l'io e l'oggetto va a finire sullo sfondo, in altri termini va a finire nell'inconscio. Quindi assume enorme importanza le caratteristiche dell'oggetto osservato, che infatti viene osservato nei minimi dettagli, sempre di più oggi, e perde valore e perde ogni interesse la qualità della relazione tra l'io e l'oggetto. Ci sono vari scienziati, che, per esempio biologi, che si sono occupati di cellule, insomma, che hanno studiato e che studiano le cellule come si potrebbe studiare un meccanismo. E alcuni di loro dicono, ma guardate che la cellula è un oggetto meraviglioso, è qualcosa di esteticamente fantastico. E alcuni di loro provano una forte empatia, una forte emozione nel vedere questo. Bene, tutte queste forme sono considerate inutili, come minimo, se non addirittura dannose dal metodo scientifico. Perché ciò che è da considerare è come funziona la cellula, come fosse un orologio. E il rapporto che io ho con la cellula che osservo è del tutto irrilevante. Bene, questo sappiamo dalla fisica quantistica, quantomeno da quella branca della fisica, che è oltretutto falsificato dalla scienza, che non è vero che se io osservo un oggetto, quell'oggetto rimane uguale, e nemmeno io rimango uguale. E quindi questo è una cosa di un'enorme importanza, perché nel mondo noi tendiamo continuamente a dare importanza a oggetti, siamo disposti a dare enorme attenzione per comprarci una lampada fatta con quel determinato tipo di design. E non diamo la minima importanza a che tipo di relazione stiamo avendo col compratore, col venditore, col partner, con gli amici. No, in quel settore abbiamo raggiunto un livello di ignoranza abissale. Non ci rendiamo conto quando creiamo barriere nella comunicazione, cioè non ci rendiamo conto ogni volta che creiamo i semi dell'infelicità presente e futura. Allora, noi siamo un fascio di relazioni. Noi apparteniamo a una corrente come una goccia d'acqua in un fiume, non siamo separati dal fiume. Nel momento che osserviamo le altre gocce del fiume o il fiume intero come qualcosa di separato da noi, siamo una forma psicotica. E ci perdiamo tutto quello che è il tipo, l'attenzione, tutto ciò che è la qualità delle relazioni che viviamo momento per momento. In questo modo, perdendo attenzione alla qualità delle relazioni, sarebbe come un musicista che perdesse attenzione alla qualità dell'intonazione, alla qualità dell'intonazione dell'accordo con gli altri musicisti. Che tipo di musica potrà venire fuori? Una musica veramente scadente. Le nostre relazioni rischiano continuamente di essere relazioni molto scadenti, a un livello molto superficiale. E da lì deriva un'insoddisfazione che poi cerchiamo di compensare attraverso un buon rapporto con l'oggetto da sfruttare. Questo è ciò a cui l'economia moderna ci stimola a fare, che ci stimola a fare continuamente. Ecco perché l'idea di Marx che la coscienza sia formata dall'economia ha perfettamente ragione. Dove ha sbagliato Marx, e qui è secondo Terzani, è che Marx non vedeva che c'è qualcosa di oltre all'economia e che c'è qualcosa di oltre ai rapporti utilitaristici. Che è appunto diciamo che ci sono le relazioni fondate su un livello più profondo che è quello di spiritualità. Terzani, dopo aver girato il mondo e aver visto tutte le rivolu molte rivoluzioni fallire, rivoluzioni nelle quali lui aveva profondamente creduto, a cominciare quella cinese, poi Vietnam, eccetera, si è reso conto che l'unica vera rivoluzione possibile è quella dentro di noi. Se non a parte questa rivoluzione, cosa faremo? Noi metteremo nelle nostre azioni esterne sempre quel tipo di qualità di relazioni che sono congruenti col tipo di pensiero che rende le persone degli oggetti. I rivoluzionari volevano fare un uomo, tutti i rivoluzionari del mondo volevano sempre fare un uomo nuovo e non si rendevano conto di avere avanti degli esseri umani e li trattavano come fossero degli oggetti, senza nessuna pietà. E questo è avvenuto in tutte le grandi rivoluzioni. Allora, è nel momento in cui ci renderemo conto che ciò che è importante sono le relazioni e non gli oggetti, avremo fatto la nostra rivoluzione. Per poterla fare occorre accedere a un nuovo tipo di pensiero, linguaggio. Adesso il sole sta cominciando a rischiarare il cielo, non è che lo si veda, sembra davvero una bella giornata e quindi è il momento di salutarci, invitandovi davvero a leggere il libro di Gloria Germani, Tiziano Terzani. La rivoluzione dentro di noi.